Italia in controluce. Italia in controluce, il viaggio di Radio 24 nelle storie italiane di cronaca. Buongiorno a tutti per quest'oggi 29 settembre da Daniele Biacchissi. È stata ancora una notte di scontri e di tensioni a Terzigno, in provincia di Napoli, nel Vesuviano, dove da circa una settimana la popolazione protesta contro la paventata apertura di un secondo sversatoio. 5 persone ferite. Il reportage di Paolo Picone dentro nell'emergenza rifiuti nel napoletano. T'accompagno, figo mio, sulla te casina mi, e te porto per guardare a tua sola non sapere, ma sapere tutto riesta e sarà per le finestre, e capisce com'è bella la città e sulle cenella. 3 anni sembrano trascorsi invano in una città che da diversi giorni, quasi che il tempo non fosse mai passato, si è trovata nuovamente in piena emergenza rifiuti. Napoli sepolta da spazzatura dovunque, cassonetti incendiati e roghi sparsi quella anche in pieno centro. E così un problema che tutti pensavano fosse ormai dietro le spalle è scoppiato nuovamente in tutta la sua drammaticità, riportando i più ottimisti con i piedi per terra. Perché si è capito che l'emergenza rifiuti non è mai stata risolta davvero in Campania e che basta davvero poco per far collassare un sistema di raccolta mai andato a regime. Esistono delle leggi abbastanza chiare, che non sono scritte da nessuna parte, dignità e moralità. Noi siamo stati colpiti nella dignità e nella moralità. Napoli sedotta e abbandonata dallo Stato. La protesta dei lavoratori addetti alla raccolta prima, l'atto di vandalismo poi con il quale sono stati danneggiati i mezzi della raccolta della società Enerambiente, alla quale è appaltato dall'ASIA il servizio per il prelievo in alcune zone di Napoli, hanno mandato tutto in tilt. Ed il sospetto degli inquirenti che hanno aperto un'indagine in proposito e che dietro tutto ciò ci possa essere la mano della camorra. Ne è convinto il questore di Napoli, Santi Giuffrè. Le modalità in cui si sono svolti alcuni di questi interventi sono certamente di stampo camorristico per dimensioni, per violenza, per modalità. Quindi tutto questo certamente dà forza a questa ipotesi, che è un'ipotesi investigativa, che stanno portando avanti i colleghi della Digos con la Procura di Napoli. Noi in atto siamo molto impegnati sul piano dell'ordine pubblico per vedere di ristabilire le condizioni minime di un vivere civile. Il riferimento del questore di Napoli alla protesta che ha bloccato la discarica di Terzigno in provincia, che vede riuniti da vari giorni residenti di diversi comuni della zona vesuviana, con la presenza diretta dei sindaci contro la paventata ipotesi di realizzazione di una seconda discarica nel parco del Vesuvio dopo quella già in funzione e che ha provocato pesanti disagi ai cittadini a causa dei miasmi che in diverse ore del giorno arrivano nelle abitazioni. La tensione in più di un'occasione è sfociata in una vera e propria guerriglia con cariche lacrimogeni, bombe molotov, sassaiole e diversi feriti. È del futuro dei nostri figli, che non si respira, le malattie che verranno col tempo. In estate sempre chiusi dentro, non si respira più. Veramente siamo proprio rovinati. Ma come ci hanno permesso un parco del Vesuvio di fare una discarica e non ne aprire un'altra? Che si apre quelli, hanno 15 anni di spazzatura in quell'altra discarica. È una cosa proprio assurda, ma veramente una cosa assurda. Prima lo sciopero della fame, poi l'occupazione insieme agli altri sindaci della sala giunta della provincia di Napoli in piazza Matteotti nel capoluogo campano. Il sindaco di Boscoreale, Gennaro Langella, ha così voluto esprimere il proprio dissenso contro chi vuole creare nel parco del Vesuvio il più grande sversatoio di tutta Europa. Il problema è che fino ad oggi intorno a me c'è il silenzio. Cioè, se lei pensa che nonostante da una settimana ormai abbiamo iniziato questa battaglia, ci sono stati 2 giorni di duri scontri, ci sono stati dei feriti, la questione è alla ribalta di tutti gli organi di stampa a livello nazionale e nonostante questo nessuno, e dico nessuno, se non il prefetto, ma solo per una questione di ordine pubblico, ci ha convocati per cercare di capire cosa stia realmente succedendo sul territorio, quali siano le problematiche, in che modo affrontarle in maniera corretta, capirà che forse anche questo gesto estremo è indispensabile per cercare di attirare portare l'attenzione. Io non so un sindaco cosa deve fare per essere ascoltato e per portare le giuste istanze dei propri rappresentanti sui tavoli opportuni. Ma da ieri c'è un primo spiraglio. I sindaci che occupavano la sala della provincia hanno incontrato il presidente Luigi Cesaro e con lui ed anche l'assessore all'ambiente della provincia di Napoli è stata concordata l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che avrà anche l'obiettivo di trovare tutte le possibili alternative all'apertura della seconda discarica. Una prima vera svolta della vicenda che ha convinto i sindaci a sospendere la protesta in attesa della prima riunione del nuovo tavolo istituzionale. E in soccorso della popolazione che protesta ora c'è anche la Chiesa. Sarà infatti il vescovo di Nola, Monsignor Beniamino De Palma, a presiedere la veglia di preghiere e solidarietà per la salute dei cittadini e la salvaguardia del creato, organizzata per questa sera a Bosco Reale. La veglia si svolgerà in Piazza Pace a partire dalle ore 20 e vedrà la partecipazione di tutte le comunità parrocchiali del territorio vesuviano. Negli ultimi giorni le proteste si sono estese anche alle scuole dei comuni interessati, in particolare a Bosco Reale, dove le mamme armate di pennelli, cartelloni e pittura hanno occupato le scuole dei loro figli. La puzza è il danno minore, le malattie che sono aumentate di una grande percentuale a causa di tutti i rifiuti tossici che vengono portati in questa discarica. Stiamo gridando a tutti la nostra disperazione in tutti i modi possibili, ma nessuno ci ascolta. Viviamo in una condizione che o ci stermina il Vesuvio o ci stermineranno coi rifiuti. Domani inoltre i sindaci dei comuni che stanno protestando hanno indetto una giornata di lutto cittadino. Italia in controluce. Umberto Bossi della Lega insulta i romani. SPQR, sono porci questi romani. Ma i romani che cosa pensano? E Roma è ancora per loro la capitale d'Italia? Alessandra Schepisi. Salve amici, com'è andata? Bene, abbiamo fatto buona caccia. E i defis ci ha aiutati. Ah, dimenticavo, abbiamo incrociato una pattuglia di legionari romani. Sono pazzi questi romani. Sapete cosa significa SPQR? Senatus Populusco Romanus. Ma che stai a dì? Da domani si volta pagina. SPQR significa sono porci questi romani. Senatus Populusco Romanus. Sono porci questi romani. Bossi l'hanno battezzato con l'acqua dei ravioli, te lo dico io, fine di giochi. Bossi attacca i romani e i romani si difendono. È mezzogiorno, mercato Campo dei Fiori, pieno centro storico. La sortita del Senatur, quella sui porci romani, presa in prestito un po' da Asterix e un po' dai film di Vanzina, è sulla bocca di tutti. Un'uscita infelice che si poteva risparmiare, che provocherà un polverone, un pandemonio, ma non è... Se lo dice per provocare, però c'è gente che magari sarà regardito poi, no? Io no, a me non me ne frega niente, può dire quello che vuole. Quindi lei non si preoccupa, insomma. Di cosa? Di Bossi, assolutamente. Detto da Bossi ci sta bene. Se prendono le parole dalla bocca in cui escono. Roma, Roma è Roma, Milano è Milano, ma che cosa ci vogliono invidiare? Ci invidieranno il sole, ci abbiamo sempre il sole. Questa cosa dovrebbe da venire qui, in mezzo alla piazza, a dirla a noi, perché qui siamo tutti romani. Un ministro si dovrebbe vergognare a dire una frase del genere. Che un ministro si dovrebbe soltanto vergognare di parlare male di una città che rappresenta l'Italia. Sì. Ah, lascia ci perdere, dopo diventiamo orgari. E poi maleducazione e stupidaggine proprio. Ma Bossi lo dice sempre. Dica sincera verità, detto da Bossi è una barzelletta, insomma, perché non è una persona che puoi prendere in considerazione. Insomma, c'è chi si arrabbia, ma c'è chi minimizza. Da Bossi c'è da aspettarselo. Del resto anche lo stesso leader del Carroccio più volte ribadisce: la mia è solo una battuta, chi mi attacca alla coda di paglia. Anche Berlusconi, che lo richiama, sottolinea che si tratta di ironia. L'opposizione invece insorge e presenterà una mozione di sfiducia contro Bossi. L'iniziativa è del Partito Democratico, appoggiata dall'UDC e dall'Italia dei Valori. Il capogruppo dei Democratici alla Camera, Dario Franceschini. Sono ormai troppi anni che si classificano le frasi di Bossi come battute e molto spesso poi si rivela che invece sono strategie politiche ben precise. E il problema è che chi ricopre un ruolo di responsabilità deve ricoprirlo, come dice l'articolo 54, con senso di responsabilità della Costituzione, con un senso dell'onore, e non può insolentire tutto e tutti. È un problema anche di rispetto del ruolo che Bossi ricopre pro tempore. Io penso che si debba riportare nella sede propria, cioè in Parlamento, i singoli parlamentari, uno per uno, per appello nominale, dovranno dire se ritengono quelle parole conciliabili con il ruolo di Ministro della Repubblica Italiana. Un'iniziativa che dal centrodestra liquidano così il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e il capogruppo della Lega Nord alla Camera Reguzzoni. Ma credo che le mozioni si debbano fare su cose serie, non sulle barzellette. Dovrebbero presentarla anche nei confronti di Asterix e Obelix o nei confronti dei fratelli Vanzina, di Massimo Boldi, cioè sono battute che sono, fanno parte dell'immaginario collettivo, insomma. Anche per lo storico Lucio Villari, le battute di Bossi non devono essere prese sul serio. Sentiamolo al microfono di Giovanni Bracco. Devono fare ridere gli italiani, perché non si può dialogare con queste espressioni o spiegarle o interpretarle. Sono un segno così di un degrado del linguaggio politico contemporaneo e quindi sono anche interessanti da questo punto di vista, perché chiariscono forse le idee a qualcuno che pensa che la maggior parte dei politici che ci governano siano persone che hanno a che fare con la cultura, mentre invece non è così, hanno a che fare con una loro cultura, quindi ognuno ha la sua, e cose si chiariscono. Per Villari però i sentimenti che esprime Bossi non sono condivisi dagli italiani. Sono, diciamo, assolutamente minoritari, però sa qual è l'inconveniente? Che qualunque cosa venga detto o battuta volgare o giudizio politico da parte della Lega ha un'amplificazione sui giornali e in televisione molto ampia, molto vasta. Questo dà l'impressione che ci sia una, come dire, un'attenzione a queste cose in tutta Italia, ma non è così. Era la seconda edizione di Italia in Controluce. Radio24.it è il sito dove potete scaricare tutte le nostre puntate. Torniamo domani alle 6.30 su Radio 24.